2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10 in replica. E poi come sempre la nostra versione super podcast e tutte le nostre interviste in edizione integrale. Abbiamo molti argomenti anche questa settimana. Potrei dire che a grande richiesta torna Gianfranco Giardina per parlare di argomenti che nulla c'entrano, o meglio, c'entrano indirettamente perché siamo costretti in casa e quindi la nostra attenzione è sempre più dedicata alle cose di casa. E quindi anche, abbiamo parlato 3 settimane fa di elettrodomestici, parleremo di piani cottura ad induzione. Un argomento interessantissimo, molto molto bello, perché nonostante esistano da tanto tempo, questi strumenti, questi apparecchi creano e suscitano ancora molte domande. Parleremo di applicazioni per il famoso ormai contact tracing, parleremo anche di Telegram, che cosa succede su Telegram, molte cose e ne parleremo tra poco. Adesso come sempre alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da alcune notizie che arrivano dall'Italia, partendo da un sistema di cui avevamo parlato qualche tempo fa, poco tempo fa, per gestire le file, visto che in questo periodo si fanno molte file, soprattutto davanti ai supermercati. Allora, Esselunga è la prima grande catena di supermercati in Italia a scegliere You First per la gestione delle code tramite smartphone. L'uso dell'app parte come test nei supermercati di Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana, per essere poi estesa nelle altre zone dove sono presenti i negozi Esselunga. In questo modo è possibile prenotare il proprio posto in fila già da casa e andare al negozio poco prima che arrivi il proprio turno, si viene appunto avvisati dall'applicazione. In alternativa, se uno non ha uno smartphone oppure non lo vuole utilizzare, è possibile dare al personale il proprio numero di cellulare e si verrà avvisati del proprio turno tramite SMS. Ricordiamo che YouFirst è una startup italiana, l'applicazione è gratuita fino al 30 giugno, quindi è anche un periodo in cui si può provare. E tra le cose che secondo me si dovrebbero provare e si dovrebbero utilizzare, Satispay è un sistema di pagamento che è svincolato dai classici sistemi di pagamento con le carte di credito o bancomat, è una sorta di borsellino elettronico e visto che si paga dall'applicazione non bisogna mettere nulla sul POS, quindi sul sistema di pagamento, è assolutamente super sicura anche a chi giustamente è preoccupato che il bancomat, anche le carte di credito, seppur molto più sicure dal punto di vista igienico del contante, possano anche quelle portare e trasferire virus. E a proposito di pagamenti elettronici, secondo l'osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel 2019 i pagamenti digitali in Italia sono saliti a 270 miliardi di euro, in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Su tutti i pagamenti effettuati in Italia, il valore di quelli digitali, quindi carte di credito, bancomat e cose del genere, è salito al 29%, quindi nemmeno un terzo dei pagamenti effettuati, dei consumi, quindi italiani, viene fatto con moneta digitale. Il numero dei POS è salito a 2,17 milioni, il 90% di questi POS è abilitato per le transazioni contactless, quindi ormai praticamente la maggior parte. C'è un dato interessante che pensavo fosse un po' più alto: i pagamenti via smartphone e anche wearable, quindi magari con uno smartwatch, in Italia valgono appena 3,1 miliardi nel 2019, quindi 270 miliardi di pagamenti digitali in generale, manca un terzo di tutti i pagamenti, e appena 3,1 quelli fatti con lo smartphone, che sono comodissimi e però ancora di nicchia. Nel settore dei pagamenti digitali c'è molto fermento in tutto il mondo. L'americana Stripe, che offre una infrastruttura per i servizi di pagamento, probabilmente anche se alcuni di voi avranno visto nei pagamenti fatti con alcuni siti di e-commerce, che viene gestito da Stripe. Allora, ha raccolto questa settimana altri 600 milioni di dollari, ne aveva raccolti poco tempo fa, 250 milioni, la valutazione del mercato di Stripe è di 36 miliardi di dollari. Sempre in questo settore, quello dei pagamenti della finanza, del fintech, da ricordare che circa un mese fa la tedesca Penta, una banca digitale che offre servizi per le piccole e medie imprese da poco presente anche in Italia, ha raccolto 18,5 milioni di euro, che per il mercato europeo è sicuramente una cifra molto interessante. Parliamo della piattaforma CodeMotion, che ha annunciato di aver raccolto 6 milioni di euro dal fondo P101 assieme a Primo Miglio e CDP Venture Capital per fare crescere ovviamente il giro d'affari non solo in Italia. CodeMotion mette in contatto professionisti del settore IT, sviluppatori ed aziende. È stata fondata in Italia 7 anni fa, oggi CodeMotion è presente anche in Spagna, Olanda e Germania. Ha un network di circa 500.000 sviluppatori software, 200 comunità tecnologiche e più di 300 tra aziende e start-up collegate in rete. Secondo Akamai, che è una delle principali piattaforme per velocizzare la consegna dei contenuti digitali verso i nostri computer, i nostri smartphone, quindi video e anche contenuti che ne so di informazione, sono le famose CDN, Content Delivery Network. Allora, secondo Akamai, il traffico internet è salito fino al più 30% dalla fine di febbraio 2020 alla fine di marzo, quindi insomma sostanzialmente nel mese di marzo. In un periodo analogo, in tempi normali, diciamo così, il traffico sarebbe cresciuto solo del 3%. Quindi secondo questa analisi, che tra l'altro è confermata anche da altre fonti che ho sentito in queste settimane, il traffico è cresciuto di circa il 10%. Scusate, 10 volte tanto rispetto al normale. Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE, che sarà disponibile sul mercato dalla prossima settimana anche in Italia a partire da 499 euro. Scontiamo tutta una serie di cose che abbiamo già descritto in altre occasioni, grosso modo 100 euro in più rispetto al corrispondente prezzo americano, poco meno diciamo di 100 euro. Si tratta dell'iPhone più compatto ed economico della gamma, con il design dell'iPhone 8, quindi da un design un po' vecchiotto, ma è ancora attualissimo. Ovviamente il processore dell'iPhone 11 è comunque una serie di migliorie anche rispetto all'iPhone 8. Diciamo che per quanto riguarda, stiamo parlando di uno smartphone da 500 euro, però per quanto riguarda la famiglia iPhone, la famiglia di Apple, stiamo parlando di un prodotto a buon mercato. E vedrete che ne venderanno tantissimi. Apple indovina sempre il giusto equilibrio tra feature del telefono e prezzo. Rimaniamo negli Stati Uniti. L'americana Verizon ha annunciato che acquisterà per meno di 500 milioni una società che si chiama Blue Jeans Network, un'azienda rivale dei vari servizi di videoconferenza come Zoom, ad esempio. Blue Jeans è un nano in questo mercato perché ha appena 15.000 clienti, mentre, giusto per fare un paragone con una delle piattaforme più discusse e più chiacchierate di questo periodo, che è Zoom, ne ha 200 milioni, cresciuta tantissimo negli ultimi tempi. Poi nella bufera, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, per tutti i problemi di cyber security, ma è un po' un benchmark della crescita di questo mercato. Pony AI, Artificial Intelligence, una startup specializzata in sistemi di guida autonoma finanziata dalla Toyota, ha annunciato che inizierà con 10 auto elettriche e autonome a fare consegne a domicilio ai 200.000 cittadini di Irvine in California. Consegnerà prodotti acquistati da Yummy Buy, che è una piattaforma di e-commerce americana. Allora, è ovviamente un nano, cioè un insignificante. Pensate che Amazon ha recentemente annunciato di assumere ulteriori 75.000 dipendenti per l'aumentata richiesta dei servizi di e-commerce, però è interessante perché si tratta di consegne con macchine a guida autonoma, quindi tu prenoti, compri e poi ti arriva questa automobile che ti consegna senza il guidatore, quindi sicuramente è un segnale di questo mercato. Un'ultima notizia, sempre dagli Stati Uniti, la NASA ha annunciato che il 27 maggio gli Stati Uniti torneranno ad essere indipendenti per i viaggi verso la stazione spaziale, quindi non dovranno più staccare il biglietto pagandolo ai russi con la Soyuz. Ci sarà il primo volo umano dal suolo statunitense dopo il ritiro dello Space Shuttle avvenuto nel luglio del 2011, quindi gli Stati Uniti hanno sbagliato qualche conto e per circa 9 anni hanno dovuto appunto utilizzare le Soyuz russe con relativi prezzi. Diciamo che con un biglietto della Soyuz si più che pagano un volo con un Falcon 9 di SpaceX. Saranno 2 gli astronauti che andranno in orbita a bordo della capsula Crew Dragon, che appunto è piazzata in cima al Falcon 9 di SpaceX. Questo lancio avverrà ovviamente dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral. In questi giorni si sta discutendo moltissimo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, di contact tracing digitale. Il contact tracing è un'attività vecchissima che si fa da molto tempo quando ci sono delle epidemie, cioè bisogna andare a ricostruire i contatti che una persona che si è poi rivelata contagiata ha avuto nei giorni o settimane precedenti. È un'attività di intelligence sanitaria, ma ovviamente la tecnologia può dare un impulso. Ci sono applicazioni che sono state utilizzate in Asia con vari risultati e ovviamente non tutto dipende dall'applicazione. E anche in Europa alcuni paesi sono già partiti con soluzioni di questo genere, altri paesi stanno ancora studiando, ad esempio gli Stati Uniti, che sono travolti dal virus, non hanno ancora una applicazione che verrà utilizzata. Non si sa nemmeno se saranno i singoli stati a realizzare applicazioni di questo genere o ci sarà un'applicazione nazionale. Venendo al nostro paese, questo dibattito che è andato avanti da molto tempo e sicuramente continuerà anche nelle prossime settimane, la notizia di queste ultime ore è che il governo italiano ha scelto la soluzione italiana per il contact tracing, che sarà appunto in grado di ricostruire i contatti ravvicinati con eventuali contagiati dal virus. Questa soluzione si baserà su un'app che si chiama Immuni, sviluppata da Bending Spoons. Utilizzerà la tecnologia Bluetooth, come abbiamo descritto anche nelle ultime settimane, a 2024 si potrà scaricare sul proprio smartphone, non sappiamo ancora di preciso quando, tra poche settimane, diciamo su base volontaria. Ricordiamo che Bending Spoons è sicuramente una delle più autorevoli e di maggior successo giovani società nel mondo delle applicazioni per smartphone. È probabilmente una delle migliori società al mondo, non solo europee, se togliamo tutti i grandi big player, quindi Apple, Google, Facebook, le grandi e più famose applicazioni, ma molte delle applicazioni realizzate da Bending Spoons sono ai primissimi posti nelle classifiche in tutto il mondo. Le abbiamo intervistati anche recentemente nel mese di gennaio, quindi potete andare a riascoltare questa intervista. Quindi sulla qualità degli sviluppatori non ci sono dubbi. C'è un gruppo di lavoro che si è messo assieme nelle ultime settimane, così come tanti altri hanno fatto la loro proposta al governo italiano, e noi abbiamo sentito Luca Foresti, che è l'amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino, che è uno dei partner di questa iniziativa ed è uno degli ideatori di questo progetto, che ricordiamo è no profit, quindi lo sviluppo di questa applicazione viene concesso al governo italiano in forma gratuita. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro nell'ottica di mettere a disposizione del governo una serie di potenziali applicazioni e funzionalità. Quelle che di cui si è parlato di più e che certamente saranno usate sono il contact tracing tramite Bluetooth e il diario clinico che può essere utilizzato per raccogliere la situazione di salute delle persone. Il diario clinico, come dice la parola, essendo un diario, può cambiare giorno per giorno. Quindi una persona può star bene oggi e domani avere la febbre e inserire all'interno del diario questa nuova informazione. Dopodiché ci sono potenzialmente altre funzionalità e sarà compito del governo decidere quali funzionalità intende utilizzare. E credo che le funzionalità che deciderà di usare dipendano dalla strategia generale, quindi da come all'interno di quella strategia l'app si inserisce, come verrà utilizzata. I dati che l'app raccoglie quali sono e soprattutto dove risiedono questi dati? I dati relativi alle due funzionalità sono quindi il diario clinico, quindi le informazioni che in modo autodichiarato le persone inseriscono dentro all'app, e una serie di codici relativi a altri device con il Bluetooth acceso che sono stati incontrati nei giorni precedenti. Questi dati attualmente, per la proposta che abbiamo fatto, risiedono localmente nel telefono e possono essere sbloccati in un secondo tempo, ad esempio quando una persona risultasse positiva. A quel punto sbloccare quei dati significa poter inviare a livello centrale l'informazione di quali sono i device contattati e a quel punto ovviamente poter informare i soggetti che sono entrati in contatto con un positivo nei giorni precedenti. Tutto anonimo, perché nel momento dell'installazione dell'app non viene chiesto nome, non viene chiesto cognome, non viene chiesto il numero di telefono e se non vengono utilizzati altri strumenti non viene tracciato la location del telefono. Quindi diciamo risalire a chi è la persona, se il governo validerà questo tipo di approccio, è pressoché impossibile. Certo, quando diciamo governo, in particolare chi gestirà questa applicazione? Non è una domanda che devi fare a me, diciamo io non sono oggi in grado di rispondere a questa domanda. Il software sarà open source, quindi sarà a disposizione il codice? Beh, se avete letto il contratto, il codice viene di fatto dato al governo e quindi anche questo sarà il governo a decidere cosa esattamente farne, cioè se metterlo in visione a tutti o altro. Su questo anche, cioè molte delle domande lecite che vengono fatte in questo momento, il soggetto che deve dare una risposta non è chi ha sviluppato la tecnologia, perché la tecnologia è tale, cioè è uno strumento che può essere usato per raggiungere degli obiettivi, ma è il decisore finale che quella tecnologia userà secondo una strategia. Certo, quindi anche quando sarà disponibile questo sistema non è questione vostra. Diciamo, Bending Spoons, che è l'azienda che sta gestendo lo sviluppo, diciamo, credo che darà una mano al governo, ma le decisioni relative a cosa fare, quando farlo, come farlo, sono decisioni che competono al governo. Certo, un'ultima domanda relativa alla network al quale voi fate, in particolare Bending Spoons fa riferimento a livello europeo. È ipotizzabile che questa applicazione si trasformi in un'applicazione europea o che dialoghi con altre applicazioni europee? È istintivamente quello che si vorrebbe fare. Dopodiché da qui a farlo bisogna passare attraverso una serie di vincoli tecnici, legali, politici e così via, che verranno dipanati, credo, nelle prossime settimane. Quindi, come capite, questo pezzetto di tecnologia è un tassello di una strategia più ampia, perché appunto questa è la verità, non bisogna pensare che un'applicazione possa risolvere tutti i problemi. Ci vuole una strategia, una governance delle prossime settimane e da questo punto di vista non abbiamo molto da aggiungere. Però visto che noi ci occupiamo di tecnologia vogliamo proseguire su questo punto e adesso parlare del ruolo che hanno o avranno anche in termini di aiuto Apple e Google, perché Google e Apple hanno deciso di mettere a disposizione a livello globale una serie di funzionalità che creeranno e agevoleranno il lavoro di chi deve sviluppare applicazioni. Però per capire che cosa stanno facendo e che cosa faranno Google e Apple, è con noi il professore Stefano Zanero, che insegna Security al Politecnico di Milano. Benvenuto a 2024. Grazie Enrico, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori. Però che cosa faranno nelle prossime settimane Apple e Google? Allora, Apple e Google hanno promesso di rilasciare quella che in gergo tecnico si chiama una API, cioè una serie di funzionalità che gli sviluppatori di applicazioni potranno utilizzare. Quindi non una applicazione fatta da loro, ma una serie di supporti per realizzare applicazioni di contact tracing, cioè applicazioni che servono per tracciare i contatti di una persona a fini epidemiologici. Possiamo dire che faciliteranno il lavoro di chi deve sviluppare applicazioni? Sì, non solo lo faciliteranno, ma anche da un certo punto di vista creeranno una sorta di protocollo di base che, se tanti sviluppatori di app diverse decideranno di utilizzare questo protocollo, le renderà in parte compatibili tra di loro, che per un'applicazione che dovrà accompagnarci per un bel po' di mesi e anche magari in un momento in cui si riprenda a fare viaggi all'estero o altri tipi di collegamenti tra persone lontane, potrebbe essere un vantaggio. Qualcuno ha detto che Apple e Google renderanno interoperabili, almeno per quanto riguarda la comunicazione Bluetooth, i sistemi operativi di Apple, iOS e Android, perché fino adesso non erano interoperabili pienamente? Allora, in generale Bluetooth è già un protocollo che è fatto per rendere interoperabili cose diverse, ce ne rendiamo conto perché lo usiamo per collegare lo smartphone all'automobile oppure alle cuffie senza troppi problemi di marca. Ciò che succede è questo, che da un lato, specialmente nel mondo iOS, nel mondo di Apple, per le applicazioni non era possibile mantenere acceso costantemente il Bluetooth nel modo in cui serve per fare scansione dei contatti. Quindi questo è un problema specifico del mondo iOS che Apple in qualche modo deve sbloccare per consentire di fare bene queste applicazioni. Nel mondo Android c'è ovviamente un problema di accesso in maniera uguale all'hardware, perché noi sappiamo che Android è un sistema operativo, ma in realtà viene poi declinato da tanti produttori in modo leggermente diverso. Quindi avere uno strato comune fatto all'interno del sistema operativo base potrebbe rendere più facile creare applicazioni che effettivamente si parlino. È auspicabile sicuramente che, immagino che sia auspicabile che tutti coloro che producono applicazioni, immagino anche chi produrrà applicazioni in Italia, adotti queste tecnologie messe a disposizione da Apple e da Google, se non altro proprio perché tutte queste applicazioni saranno interoperabili tra di loro, giusto? Beh, a meno di, come dire, di controindicazioni che al momento è difficile vedere, sì, anche perché ovviamente Apple e Google hanno la lion share del mercato ah sì, praticamente fanno il 100% almeno in Occidente. Sì, e devo dire che questo in realtà va calcolato un po' differentemente, perché per il mondo Android, come ci dicevamo, ci sono vari tipi di device, quindi non è detto che tutti i dispositivi possano poi importare quest'ultimissima release, quest'ultimissima patch del sistema operativo. Però in generale sì, fanno sostanzialmente la grandissima maggioranza dei dispositivi in circolazione, almeno nelle nostre zone, e questo rende automaticamente molto attraente. Non dico necessariamente usare solo le API fornite da Google e Apple, ma quantomeno usare anche quelle, se magari lo sviluppatore di Apple vuole anche fare dell'altro sopra a questa infrastruttura di base. Certo, bisognerà aggiornare i sistemi operativi o queste novità verranno messe a disposizione in altro modo? No, quasi sicuramente ci sarà un aggiornamento dei sistemi operativi. Io credo che sia assolutamente necessario nel caso di Apple, proprio perché bisogna modificare alcune cose che al momento rendono ristretta la possibilità di usare il chip Bluetooth nei dispositivi iOS. Credo che la stessa cosa valga anche per le versioni di Android. Questo ovviamente implica un problema, cioè che mentre Apple nel momento in cui rilascia una modifica ad iOS la può poi rilasciare verso tutti i propri dispositivi e i dispositivi vengono aggiornati quasi sempre molto rapidamente dagli utenti. Nel caso di Android, la frammentazione del mondo dei dispositivi fa sì che l'adozione delle patch non sia necessariamente così veloce. Sì, questo diciamo che è uno dei problemi, uno dei grandi problemi di Android. Senti, senza l'uso di un'applicazione specifica per fare il contact tracing, quello che faranno Apple e Google potrà comunque servire a qualche cosa o a poco o addirittura a niente? Perché ricordiamo che Apple e Google comunque non faranno un'applicazione, saranno o i governi o le istituzioni sanitarie in vari stati a dover comunque costruire delle applicazioni anche basandosi su queste tecnologie. No, per quello che si legge nei loro, perché per ora abbiamo soltanto i comunicati e dei white paper, no? Quindi non abbiamo ancora la tecnologia davanti, però per quello che si legge si può interpretare, senza una app che utilizzi queste API, questa funzione rimane inerte all'interno del sistema operativo. È anche sensato che sia così perché ovviamente questo lascia in mano all'utente la decisione di quale app installare, quindi di installare quella della propria nazione se è stata rilasciata e anche di decidere se partecipare o meno a questo schema di tracciamento dei contatti che per ora pare, almeno nelle nazioni occidentali, voler essere un meccanismo libero, a libera partecipazione del cittadino. Certo, su base volontaria. Venendo appunto allo schema che verrà utilizzato, almeno che molti stati stanno o adottando o stanno pensando di adottare questo sistema basato sulla tecnologia Bluetooth e quindi anche l'indicazione che danno Apple e Google va in quella direzione. Dal punto di vista della privacy e della sicurezza dei nostri dati. Molti ci dicono che stiamo parlando di dati anonimi che non permettono di risalire né al device, ma né, cioè, ovviamente all'identità dell'utente. Stiamo tranquilli, cioè quello schema con cui si stanno progettando queste applicazioni ci protegge da questo punto di vista? Allora, come giustamente accennavi, sono tanti schemi in realtà quelli che sono stati proposti in varie nazioni e questo ultimo proposto da Apple e Google, però hanno molti elementi in comune e se realizzati, diciamo, con il massimo livello di rispetto della riservatezza, è possibile creare questo schema con garanzie di privacy molto elevate. Semplificando molto, ma così ci facciamo capire bene, quello che succede è che ogni cellulare che partecipa a uno schema di questo tipo, e ripeto, i dettagli poi cambiano, ma la sostanza rimane questa, genera un suo codice numerico che non è né collegato al numero di cellulare, né collegato all'identificativo del dispositivo Bluetooth, è un codice a caso. Questo codice a caso viene trasmesso dal cellulare ai dispositivi con cui entra in contatto. Negli schemi più avanzati, questo codice, tra l'altro, cambia ogni tot di tempo in modo da rendere proprio difficile anche capire anonimamente che sei tornato in contatto con lo stesso cellulare, no? Quando una persona fa un test, oppure viene ricoverata, oppure insomma, viene scoperta malata positiva. Consegnare il registro dei dati sul proprio cellulare, dei dispositivi con cui è stato in contatto, consente agli operatori sanitari di mandare una segnalazione sulla rete di questa applicazione che quegli identificativi di cui non si sa chi siano o quando siano stati effettivamente incontrati, eccetera, di cui non si hanno informazioni particolari. Mandare un'allerta a quei dispositivi sostanzialmente alla cieca, quindi chi chi ha quel dispositivo, solo siccome il dispositivo sa che quel numero appartiene a lui, riceve un messaggio che dice: attenzione, una delle persone con cui hai avuto un contatto significativo, mediamente significativo, ci possono essere delle gradazioni di contatto, è stata trovata positiva. E qui l'autorità sanitaria dovrà anche aggiungere quali sono le indicazioni, che cosa diciamo a questa persona. Sei stato a contatto con una persona positiva, ti consigliamo, che ne so, di chiuderti in casa per qualche giorno, di contattare il tuo medico curante, oppure di andare in questo posto X dove c'è una testing station dove puoi farti fare un test. Questa logistica intorno al messaggio in realtà è il 95% del problema, nel senso l'applicazione in sé che abbiamo raccontato in 5 minuti è un pezzettino, ma è tutta la logistica di come poi si usa il messaggio dell'applicazione che è la parte difficile da fare e anche difficile da ragionare. Certo, anche perché quella richiede un'organizzazione sul territorio fisica, mentre l'applicazione con una squadra di bravi sviluppatori la si può fare. Il resto no, certamente quello è un tassello molto, molto importante, molto delicato. Quindi, tornando agli eventuali l'eventuale preoccupazione di privacy, se capisco, non ce ne sono fondamentalmente, e anche nel caso che qualcuno riuscisse ad entrare nel database dove sono contenuti tutti questi codici anonimi, se ne può far molto poco, giusto? Allora, per lo schema che ho descritto, che ripeto è quello più rispettoso della privacy, poi ci sono varie sfumature che possono essere modificate, non c'è proprio il database, perché ogni cellulare ha la sua lista e ogni cellulare sa il suo ID. E quindi quando qualcuno viene trovato positivo, si prende la lista dal cellulare di questo qualcuno e la si distribuisce a tutti gli altri dicendo: hey, se vi riconoscete in questa lista di numeri, sappiate che siete entrati in contatto con una persona positiva. Per cui, non esistendo proprio il database centralizzato, essendo completamente decentrato, è estremamente rispettoso della privacy. C'è da dire che considerazioni varie fatte da epidemiologi per questo specifico tipo di malattia potrebbero condurre a rilassare alcune delle tutele di privacy, quindi potrebbero condurre per esempio a dire: ok, non rendiamo questa cosa così completamente anonima e decentrata, ma salviamo per esempio in maniera anonimizzata, quindi anche senza gli identificativi, gli elementi di contatto tra i cellulari, perché in questo modo l'epidemiologo può studiare quante catene di contagio si creano senza sapere di chi si tratta, oppure potrebbe essere inserita una funzione per raccogliere in maniera magari molto ampia, in modo da non essere precisa, i luoghi più frequentati dalle persone, in modo che se una persona si è rivelata positiva, oltre a sapere quali sono i contatti, si ha anche una lista sempre sul suo cellulare, quindi non in un database centralizzato, di luoghi frequentati, per poter utilizzare anche quello allo scopo di andare a trovare potenziali contatti. Questo perché il contact tracing è un'operazione che non ce la siamo inventata adesso con questa epidemia, ma gli epidemiologi la applicano e l'hanno sempre applicata per prevenire le epidemie di colera o per prevenire i casi di meningite. Li abbiamo sentiti raccontare più di una volta al telegiornale, no? È stata trovata una persona o più persone infette da meningite e i loro contatti vengono presi e vaccinati. Quel trovare i loro contatti normalmente si fa a mano. In questo caso, viste le dimensioni dell'epidemia, vista la velocità, gli epidemiologi ci dicono serve anche un supporto informatico. Come questo supporto si possa realizzare, noi informatici possiamo dire: ok, il modo più privacy preserving è questo. Se poi serve qualcosa di diverso, va analizzato come raccogliere altri dati senza compromettere la privacy. Per questo che non lo vedo tanto come una cosa one shot, ma sarà un dialogo e un'evoluzione di questa applicazione, ed è importante che questo dialogo con anche la rappresentanza, diciamo, delle richieste di privacy dei cittadini continui, perché è vero che c'è l'epidemia, è vero che dobbiamo necessariamente fare di tutto per cercare di tornare verso una vita il più possibile normale, ma la vita il più possibile normale include non venire tracciati in quello che facciamo. Esattamente, molto chiaro. Grazie al professor Stefano Zanero per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie a te, a presto. Adesso parliamo del, diciamo, rinnovato dibattito sulla diffusione di materiale protetto da copyright, ovviamente una diffusione illegale, attraverso le piattaforme web o le piattaforme di messaggistica, che sono un po' la nuova frontiera per la diffusione di materiale illegale. La FIEG questa settimana è uscita, FIEG è la federazione degli editori di giornali quotidiani, insomma della stampa italiana, e se ne è uscita con una, ovviamente una provocazione, una proposta piuttosto forte, cioè di bloccare Telegram, perché Telegram è negli ultimi anni diventato un veicolo per diffondere copie pirata dei quotidiani nazionali. Perché la FIEG lo dice in questi giorni? Perché in queste settimane di gente costretta a casa, che magari o non, di solito non legge i giornali, non li vuole pagare, beh, si affida a queste piattaforme trovando giornali in maniera illegale. Tra l'altro ci sono molti quotidiani, anche il Sole 24 Ore, che hanno delle offerte per l'edizione digitale anche piuttosto economiche. Vabbè, comunque su Telegram ci sono anche gruppi che diffondono non solo quotidiani ma anche un sacco di altro materiale in modo illegale. Questa è una cosa illecita sia per chi diffonde ma anche per chi scarica questo materiale, quindi chi le usa, no? Però ovviamente ci sono molte domande su questo tema. Ad esempio, la prima è se concretamente si può fare qualcosa, come si può fare qualcosa. Saluto Laura Turini, che è avvocato esperto di protezione della proprietà intellettuale online, da molti anni si occupa di questo tema, quindi è molto esperta. Laura, bentornata a 2024. Grazie a voi. Allora, che cosa si può fare concretamente per cercare di contenere, perché smantellare completamente è ovviamente, se non impossibile, molto molto difficile, e che responsabilità hanno queste piattaforme? Allora, il problema della responsabilità delle piattaforme è molto dibattuto. In linea generale dobbiamo partire dal presupposto che la piattaforma è in sé uno strumento neutro, ovvero uno strumento che può essere utilizzato per fini leciti oltre che per fini illeciti. In sé quindi non è che può essere demonizzata. Se pensiamo ad esempio a Telegram, Telegram nasce, come sappiamo, nel 2013 proprio a seguito dell'attività di due fratelli, i fratelli Durov, che in contrasto con quello che era la volontà del governo russo, hanno poi condotto un'attività fuori dalla Russia e hanno fondato Telegram proprio con lo scopo di poter diffondere le proprie idee e i propri messaggi in modo non controllato e quindi in modo assolutamente libero. Quindi alla base di molte di queste piattaforme, non tutte, ci può essere anche un sano e giusto diritto alla libertà di espressione. Questo per dire che non devono essere demonizzate. Ovviamente è diverso il discorso quando qualcuno usa queste piattaforme per commettere degli illeciti o degli abusi. In quel caso si deve assolutamente intervenire. Tuttavia la normativa italiana, europea, prevede delle esenzioni di responsabilità per gli internet provider, quindi per coloro che si limitano a fornire l'accesso alla rete piuttosto che l'accesso a determinate piattaforme, i quali tendenzialmente sono irresponsabili salvo determinate situazioni, ad esempio salvo il caso in cui non intervengano nell'informazione, nel messaggio illecito che viene veicolato, o salvo il caso in cui non siano a conoscenza concretamente dell'illecito e su istanza dell'invito di un'autorità competente non intervengano a rimuoverlo. Nel caso di Telegram la situazione più difficile, perché Telegram è una piattaforma strutturata tecnicamente in modo tale che è abbastanza complicato poter intervenire, anche se Telegram collaborasse, e Telegram mi pare di aver letto che non intenda minimamente collaborare, ed è abbastanza coerente con quelli che sono i suoi principi costitutivi. Perché? Perché Telegram lo dice espressamente nelle sue risposte sul suo sito, e dice che praticamente per Telegram tutte le chat e gruppi sono considerate un territorio privato dei partecipanti, e quindi espressamente Telegram dichiara che non esegue alcuna richiesta di rimozione di contenuti relativi a questo materiale. Dice anche una cosa in più a livello tecnico, e dice che le chat sono segrete e sono secretate appunto attraverso un sistema di crittografia end-to-end, e questa crittografia prevede anche che i dati delle chat, così come anche le relative chiavi di decriptazione, sono divise in diverse parti e non sono mai tenute tutte insieme, ragion per cui, come scrive espressamente Telegram, per sforzarci a consegnare qualsiasi dato sono necessari parecchi ordini da tribunali di diverse giurisdizioni. Quindi un intervento che cerchi di colpire Telegram è molto complicato, molto complicato. Diverso il discorso per quanto riguarda coloro che utilizzano Telegram. Allora, chi utilizza Telegram per caricare materiale illecito commette un reato, queste volte commette un reato, soprattutto se lo fa a fini di lucro, perché questo prevede l'articolo 171 ter della legge sul diritto d'autore. Certo, però andare ad individuare queste persone è altrettanto complicato. Esatto. Non è facile, però ci sono stati dei casi proprio sottoposti all'esame della magistratura, nel quale a seguito di una lunga indagine, quindi attraverso un controllo di diversi indirizzi e anche spesse volte attraverso l'inserimento di agenti nella catena, si è riuscito a risalire dall'utente all'amministratore del gruppo. Se si riesce a colpire l'amministratore del gruppo, allora lì si può fare effettivamente qualcosa, altrimenti è abbastanza complicato. Le sanzioni ci sono, perché chiaramente chi carica, trasmette e diffonde materiale protetto può rispondere appunto di un reato, e quindi un reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, o in caso di situazioni più gravi, ad esempio quando vengono distribuite più di 50 copie di un'opera, da 1 anno fino a 4 anni, e una multa che può superare i 15.000 euro. Però il problema è pratico e concreto, occorrono delle indagini per poter arrivare a chi è l'amministratore di un gruppo che pubblica e distribuisce materiale protetto. Quindi è un po' come voler colpire la società che gestisce le autostrade se uno, transitando con un furgone sull'autostrada, trasferisce materiale illecito da un punto all'altro. Non ha responsabilità l'autostrada, ma devi andare a fare un'indagine per colpire quello che gestisce il furgone. Adesso è chiaro che è un paragone un po' tirato, ma per farci capire. Direi che il paragone è abbastanza calzante e di fatto rende ben comprensibile qual è la situazione. Appunto, da lì siamo partiti, il mezzo è neutro, l'autostrada è una strada che può essere percorsa per andare in vacanza, per i motivi per cui la si usa poi possono determinare un illecito. Non ci sono mai stati casi in cui invece la piattaforma, quindi addirittura tutta la piattaforma, è stata bloccata, sospesa o comunque punita per invece un illecito? Ma dipende che cosa si intende per piattaforma. Ci sono stati casi in cui ad esempio sono stati chiusi siti internet in toto, perché all'interno di questi siti internet, quindi di piattaforme internet, venivano commessi degli illeciti. Però anche questi casi sono stati poi fortemente criticati, perché in realtà bisogna andare a vedere quali sono, diciamo, le parti di questa piattaforma che costituivano illeciti e quali no, quindi una chiusura totale di un canale, di una piattaforma in modo assoluto, perché su questa piattaforma si realizzano anche degli illeciti, non è diciamo la strada più idonea. Ovviamente nel caso in cui invece vi sia un canale delicato, una piattaforma che fa esclusivamente un certo tipo di attività che costituisce un illecito, il discorso è diverso. Ovviamente poi ci sono casi gravi in cui in realtà si interviene in modo molto duro. Ad esempio, recentemente, proprio recentissima, del 23 marzo scorso, c'è una sentenza della Cassazione Penale che ha condannato addirittura per associazione a delinquere un gruppo di 3-4 persone, di cui appunto un ingegnere informatico, che avevano allestito sul dark web un mercato di materiale illecito anche di molto, molto grave, armi, stupefacenti, ma anche prodotti contraffatti. E è noto come l'avevano chiamato Berlusconi Market, ovviamente senza che ci fosse alcun riferimento con la persona, ma anche qui per poterlo colpire in realtà la polizia giudiziaria ha fatto un grande lavoro di appunto raccolta delle prove, e quindi c'è stato poi anche l'inserimento di un agente sotto copertura che si è inserito nel gruppo, ha fatto degli acquisti, è stata messa una telecamera nel luogo in cui veniva lasciata la merce acquistata, e da lì poi perquisizioni ambientali e tutta una serie di attività appunto di indagine che ha portato alla fine alla creazione di quella che era appunto l'ipotesi di reato. Quindi questo per dire che non è mai un accesso diretto alla piattaforma in sé sufficiente a poter raggiungere il risultato che si vuole, è il punto di partenza per poter dare l'avvio ad un'indagine che poi, una volta compiuta, può rintracciare i singoli soggetti che commettono l'illecito. Chiaro, in questo caso erano italiani. Erano italiani, sì, erano italiani. Tutto più facile, tra virgolette. Come dire, se un illecito del genere viene fatto da persone che stanno in Tunisia o in Bulgaria, è un po' più complicato. E anche qui hai colto un altro segno molto importante, la rintracciabilità. Lo stesso Pavel Durov, che è appunto il fondatore di Telegram, risiede a Dubai, ma di fatto è sempre in giro per il mondo, così come spesso appunto i soggetti che commettono illeciti si muovono, e quando sono all'estero ovviamente la situazione è estremamente più complicata, perché devono entrare in gioco rogatori internazionali, e anche la parte di indagine è complicata da quelle che sono chiaramente le normative e gli accordi internazionali in materia. Per cui sì, è tutto molto complicato. Dove potremmo invece veramente intervenire? A livello degli utenti, a livello di chi usa il materiale illecito, perché non dimentichiamoci che siamo poi noi che andiamo a scaricare il materiale illecito, e quindi è inutile andarsi poi a lamentare quando veniamo colpiti direttamente, ma cerchiamo di tenere comportamenti corretti. Quindi un invito anche ovviamente ai cittadini tutti di non commettere questo tipo di illeciti, perché anche chi scarica un file, un quotidiano, può essere sottoposto a delle sanzioni, non penali, sanzioni amministrative, ma comunque può essere soggetto all'applicazione di una sanzione. E al di là della sanzione, che può avere un importo più o meno alto, però quello che conta è anche il comportamento, anche a livello etico-morale. Quindi insomma cerchiamo di non scaricare materiale illecito. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10. Io sono Enrico Pagliarini, potete contattarmi tramite email 2024@radio24.it, oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Vi ricordo che abbiamo una fantastica versione super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale online sul nostro sito internet o attraverso la nostra applicazione per smartphone iOS o Android, oppure attraverso le principali piattaforme audio come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e le altre che trovate negli store del vostro smartphone, del vostro telefonino. 3 settimane fa abbiamo parlato con Gianfranco Giardina di elettrodomestici. Abbiamo detto: se siete interessati a qualcosa di particolare, scriveteci, fatecelo sapere. Direi che messa ai voti ha vinto i piani di cottura di induzione. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille Enrico, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale D-Day.it. Allora Gianfranco, che cosa sono i piani di cottura di induzione? Beh, allora i piani di induzione sono dei piani cottura, quindi con la stessa funzione dei piani a gas che sono utilizzati normalmente in Italia, solo che utilizzano un principio fisico completamente diverso, quindi non la fiamma viva come ovviamente accade nei piani a gas, ma l'induzione magnetica. Quindi di fatto ci sono delle bobine sotto il vetro, la vetroceramica che ricopre questo piano, queste bobine creano un campo magnetico ovviamente comandato dagli opportuni comandi. Questo campo magnetico non fa assolutamente niente, non scotta, non fa male, non ha nessuna controindicazione, ma se ci avvicino e ci appoggio una pentola ferromagnetica, quindi in ferro, in acciaio, in ghisa, comunque che sia in grado di essere sensibile a questo campo magnetico, ecco che la pentola assorbe energia e calore. Due cose vanno dette: finché non appoggio la pentola, il piano è assolutamente ghiacciato, anche se l'ho già acceso, e non consumo nessuna energia, perché si crea sì il campo magnetico, ma questo non si scarica da nessuna parte, quindi non viene consumato. Nell'istante in cui appoggio la pentola, ecco che l'energia si trasferisce alla pentola, e solo la pentola, e questo è un vantaggio. Allora, questo Gianfranco è un elemento importante, cioè quello che non tutti i tipi di pentole vanno bene, per capire se, perché uno magari ha un set di pentole infinito in casa e dice aspetta, prima di cambiare tutte le pentole, cambiando il piano cottura, prendendo un piano ad induzione, voglio fare un test, cioè basta forse prendere una calamita, se la calamita si attacca alle pentole, quelle pentole sono compatibili. Sì, sicuramente questo è un modo, è il modo che si può utilizzare per le pentole più datate. Va detto che ormai da diversi anni, proprio anche in virtù della diffusione, soprattutto in altri paesi europei, ma ormai anche in Italia, dei piani induzione, tutte le pentole compatibili hanno stampigliato un simbolino che è fondamentalmente il simbolino della pentola con sotto una, come fosse una molla, che è l'equivalente dell'avvolgimento che poi crea il campo magnetico. Ecco, quel simbolo è che purtroppo sarebbe meglio farlo vedere, ma siamo in radio. Quel simbolo è il simbolo che certifica che quella pentola è compatibile con l'induzione. Devo dire che tutte le pentole, o quasi tutte le pentole di produzione recente, sono oramai compatibili, proprio per il fatto che c'è molta domanda. Ok, quindi oppure potrebbe anche essere un'occasione per rifare il parco pentole. Senti, ci sono delle caratteristiche che accomunano tutti i piani cottura ad induzione. Facciamo un breve riepilogo di quali sono queste caratteristiche. Sì, sono le caratteristiche proprie di questa tecnologia. Allora, innanzitutto il fatto che non ci sia la fiamma, ma che ci sia l'energia che viene trasferita direttamente alla pentola e non all'aria circostante, fa sì che siano piani ad alta efficienza. Quindi, non si spreca energia. La fiamma butta un sacco di energia e di calore anche nell'ambiente. Per questo motivo, per esempio, far da mangiare d'estate, quando fa molto caldo, è una stagione verso la quale ci stiamo incamminando, ecco, normalmente fa sudare, si soffre molto. Con l'induzione si soffre molto meno, perché non c'è la fiamma in ambiente e tutta l'energia, ma tutta, viene utilizzata per la cottura, e questo è un primo vantaggio. Ma non è soltanto un vantaggio sulla temperatura e sull'efficienza energetica, anche sulla qualità dell'aria, perché la fiamma consuma ossigeno. Nell'aria, normalmente in un'area normale, c'è circa il 21% di ossigeno. Se noi abbiamo una fiamma viva, magari per ore, magari qui ci spostiamo invece in inverno e quindi con le finestre chiuse, c'è la classica aria viziata di quando si sta molto in cucina e si cuoce molto. L'induzione non consuma ossigeno, quindi anche la qualità dell'aria resta decisamente migliore. Un altro vantaggio è che tutti i piani di induzione non hanno quelle profili di ghisa per reggere la pentola, ma sono un piano di vetro perfettamente piatto, un piano di vetro che può essere utilizzato in toto quando è spento ovviamente, o anche in parte come piano d'appoggio. Per esempio è un classico cuocere su uno spazio con una pentola e a fianco usare il resto del piano cottura come piano d'appoggio per fare l'impiattamento. Questo vuol dire che anche in cucine piccole un piano induzione allarga moltissimo lo spazio. Supponiamo che noi si debba fare semplicemente delle preparazioni senza cottura o stiamo preparando delle altre cose, il piano cottura per tutta quella fase diventa una prosecuzione del piano d'appoggio e quindi è un grande vantaggio. E poi il vantaggio che è quello, diciamo, che è più noto dei piani di induzione, quindi i tempi di cottura. Per esempio il tempo per portare una pentola d'acqua a ebollizione è decisamente più ridotto rispetto a un piano a gas, direi dimezzato o addirittura ridotto un terzo a seconda delle potenze in gioco, e questo dipende, è una conseguenza naturale del fatto che il piano è molto più efficiente, quindi essendo più efficiente diventa anche più efficace e fa bollire l'acqua prima. E poi sono anche più sicuri, nel senso che se io metto una mano, magari anche un bambino mette una mano sopra al piano ad induzione, nel momento in cui non c'è la pentola non scotta. Allora, non scotta di per sé, è chiaro che la pentola che riceve energia, quella diventa calda, ovviamente, se no non cuocerebbe gli alimenti, quindi non c'è l'effetto visivo della fiamma, che è un deterrente naturale evidentemente, ma molte volte, come sappiamo, anche in questi casi, anche con la fiamma non viene visto e ci si scotta, però le pentole sono calde, questo va detto. Una volta levata la pentola, il piano, anche se acceso, è praticamente spento. Certo che il vetro dove è stata appoggiata una pentola in ebollizione per 10 minuti resta caldo per un po'. Per questo motivo alcuni piani hanno come dei segnalazione ottica della temperatura, quindi si accende una luce, un LED, un qualche cosa che fa vedere, normalmente rosse o arancioni, che fanno vedere che il piano può essere ancora caldo, ma è proprio il vetro che è caldo, non è un piano elettrico come quelli di una volta dove è la superficie quella che diventa bollente e trasferisce il calore. Dunque Gianfranco, veniamo a una delle domande che più frequentemente ti saranno arrivati, verranno fatte, ma sono arrivate appunto anche nelle ultime settimane qui alla mia email. Questione legata alla potenza. Molti dicono: è bello il piano cottura di induzione, ma dovrei adeguare il mio impianto elettrico, soprattutto la fornitura di potenza del mio impianto elettrico. È vera questa affermazione? Fino a che punto è vera? Come stanno le cose? Beh, certamente se noi prendiamo nel bilancio energetico familiare, leviamo un certo potenza al gas e lo trasferiamo al contatore elettrico, è chiaro che il contatore elettrico sarà più sotto pressione rispetto a un periodo in cui abbiamo invece utilizzato il piano cottura a gas. Ma detto questo, quasi tutti i piani cottura, devo dire, anzi sconsiglio i piani cottura che non abbiano questa funzione, sono dotati di un limitatore di potenza. Che cosa significa? Il limitatore di potenza può essere configurato, e qui le differenze da piano a piano ci sono, perché configurazioni più fini o configurazioni un po' più grezze, diciamo, per avere dei limiti di potenza massima impegnata. Cioè, anche se il piano cottura potrebbe occupare una potenza, non so, diciamo di 3 kW, di 4 kW alla massima potenza di tutti i fuochi, ecco, bene, io gli dico no, non andare oltre 2,5, perché so già che è un contatore da 3 kW e poi salterebbe. Ecco, se ovviamente si vuole essere tranquilli, quindi si fa da mangiare ma intanto va la lavatrice, la lavastoviglie, ecco, il consiglio è quello di spostarsi su 4,5 kW. ma non è indispensabile, e comunque anche tenendo i 4 kW e mezzo cautelativamente si può attivare il limitatore di potenza che fa sì che non venga mai superata quella potenza. Che succede se un utente richiede più potenza di quella che è impostata sul limitatore? Quindi magari accendendo tutti i fuochi, chiamo fuochi ancora, diciamo tutti i fornelli, non saprei come chiamarle, induzione, il piano limita proporzionalmente tutte le emissioni, quindi limita un po' la potenza, l'acqua andrà a bollire un pochino meno velocemente, ma sicuramente il contatore non salta. C'è da dire, a onor del vero, che è abbastanza raro che noi si faccia andare tutti i fuochi contemporaneamente, succede a Natale, a Capodanno o quando abbiamo tante persone al centro. Ci sono, come sempre in tutti i prodotti, i migliori prodotti che hanno delle funzionalità cosiddette avanzate. Quali possono essere, oltre a quello che abbiamo visto, che abbiamo capito che grosso modo sono le caratteristiche che accomunano tutti i piani cotture, anche queste ultime considerazioni sulla gestione della potenza sono sempre più diffuse tra i piani di cottura? Sì, diciamo quelle, i piani migliori offrono tante piccole caratteristiche che possono essere veramente molto comode, non dico vitali, ma molto comode. Diciamo che quando noi vediamo un piano cottura normale, vediamo delle X in serigrafia, delle crocette che determinano il centro della nostra bobina sotto il vetro e quindi il centro rispetto al quale dobbiamo appoggiare la nostra pentola. È come fosse l'equivalente del fornello in un piano cottura tradizionale. Bene, ci sono alcuni piani cottura che non offrono necessariamente queste croci in maniera molto statica, ma permettono, nei casi migliori, di appoggiare la pentola dove si vuole. Sono molto pochi, ma tanti prototipi, tanti top di gamma, ma in commercio veramente sono molto pochi, quindi dei piani completamente neri, io appoggio dove voglio e sul display mi compare il simbolo della pentola con la dimensione della pentola che ho appoggiato. Il piano riconosce tutto e quindi ho infiniti fuochi che posso accendere o comunque in qualsiasi posizione. In casi più invece frequenti ci sono delle zone flessibili, quindi delle zone che sono magari divise in quattro e a seconda della dimensione della pentola che io appoggio, aumentano la superficie radiante sempre più e quindi io posso anche usare delle pentole ovali molto grandi per cotture particolari, oppure dividerlo in due e usare due fornelli piccoli, per esempio una caffettiera e un pentolino del latte per la colazione. Quindi in questo modo io non ho un piano fisicamente precostituito, ma è un piano che continua a cambiare layout a seconda delle necessità che ho. E addirittura ci sono alcuni piani che sono molto interessanti da questo punto di vista, che permettono, lungo una linea, spostando la pentola, se è impostata quella funzione, di cambiare la temperatura. Quindi in qualche modo, supponiamo che io debba rosolare una carne o fare un piatto che preveda una cottura variata come temperatura, ecco, io posso spostarlo in avanti, per esempio verso l'alto, e a quel punto avrò una maggiore potenza di cottura e quindi una maggiore temperatura. Quando vedo che sto superando il limite, posso spostarlo un po' più verso il basso o addirittura portarlo al limite estremo del piano dalla parte opposta, dove avrò la minima temperatura e quindi quella che serve solo per tenere in caldo la pietanza. Quindi anche qui funzioni innovative. Allo stesso modo, essendo il piano a induzione un'emissione senza fiamma, io posso modulare l'energia che do non solo verso l'alto facendo bollire l'acqua molto in fretta, ma anche verso il basso e quindi ottenere che cosa? Ottenere per esempio pochissima temperatura, pochissima energia e quindi una temperatura assolutamente moderata, 40-45 gradi, giusto per tenere in caldo una pietanza. Per esempio faccio da mangiare, i miei familiari tardano ad arrivare, adesso siamo tutti in casa, ma diciamo attendere qualcuno andrà a lavorare e tornerà magari in ritardo, ecco, finisco mentre metto in tavola per alcuni familiari, lascio la pentola solo in mantenimento temperatura per i ritardatari, e questo è assolutamente comodo, e con la fiamma è veramente difficile da fare, se non praticamente impossibile. E il sensore di temperatura che c'è in alcuni piani cottura è anche molto utile, per esempio per la bollitura, perché se io mettessi a 9, normalmente la potenza va da 0 a 9, quindi la massima potenza, una pentola d'acqua per andare a bollitura più velocemente possibile, benissimo, arriva a bollitura molto presto, ma se non abbasso poi l'intensità, l'acqua tende a bollire eccessivamente, ovviamente non supera i 100 gradi, però incomincia a gorgogliare troppo e rischia di uscire dalla pentola. Per questo motivo ci sono dei piani che hanno dei sensori, per esempio, che registrano la temperatura del piano, cioè della pentola, e quando questa si sta avvicinando ai 100 gradi, quindi l'acqua già sta per bollire, modulano la potenza per mantenerlo in quell'intorno, quindi per non superare eccessivamente i 100 gradi, o meglio, 100 gradi dicevamo non li può superare per motivi fisici finché non è finita l'acqua, ma comunque per tenere l'acqua in ebollizione senza che esca, oppure ancora per fare delle cotture che sono molto diciamo popolari in questo momento in tutti i talent show di cucina, che sono le cotture a bassa temperatura, che richiedono una bassissima temperatura, quindi inferiore ai 100 gradi per esempio, e magari per ore, o a bagnomaria oppure anche semplicemente in umido, se sono pietanze in umido. Ecco, in questo caso col piano induzione possiamo farlo, come si può fare anche sciogliere per esempio il cioccolato fondente, che è un'altra pietanza complicatissima da fondere, perché se si supera una certa temperatura il cioccolato cristallizza e poi non è più utilizzabile per i nostri dolci. Invece con il piano induzione molto meglio che con la fiamma. Una volta con la fiamma non c'era altro modo che farlo con la complicazione del bagnomaria. Con l'induzione invece si può fare direttamente sul piano, senza pentolino nel pentolino, eccetera eccetera. Dunque il problema è che adesso abbiamo fatto venire voglia a molti dei nostri ascoltatori di, se non lo hanno già fatto, di passare al piano induzione, oppure di fare un upgrade se non hanno alcune di queste funzioni. Un'ultima domanda riguarda un'idea di prezzi. Sì, oramai il piano induzione non è più un bene di lusso come era all'inizio, no? Perché possiamo dire che prima i primi piani induzione effettivamente erano molto costosi. Adesso partiamo da qualche centinaio di euro, 200-300 euro. Per i piani più semplici si può salire fino a 600, 700, 800 per quelli più complessi, più sofisticati, con le tecnologie che ho raccontato. Sono ovviamente, stiamo escludendo ovviamente i piani, fammi dire, di design o quelli di marche super esclusive, che possono anche raggiungere 2-3 mila euro, però stiamo parlando veramente di prodotti un po' particolari. Una nota va detta, visto che magari abbiamo fatto venire la voglia a qualcuno, sull'induzione. Allora, cioè sull'installazione, scusate. L'installazione dell'induzione è quasi uguale come spazio sul piano ai piani cottura a gas, però normalmente occupano in altezza, quindi in profondità sul piano, un centimetro in più, 49 centimetri invece che 48, perché? Non lo so, però è così, quindi significa che se voglio sostituire un piano a gas con un piano a induzione probabilmente dovrò fare un piccolo taglio del piano d'appoggio, perché devo recuperare questo centimetro in più. Meno male che è un centimetro in più e non un centimetro in meno, perché sennò non si potrebbe neanche fare il passaggio dal gas all'induzione se non lasciando un centimetro di buco, tanto per intenderci. Questo è facile, facilissimo da fare per chi lo installa anche col fai da te, con un seghetto alternativo se il piano è in truciolare, in legno o in questi materiali. È più complicato quando il piano è marmo o in granito, perché qui c'è bisogno che esca qualcuno che abbia gli strumenti, le lame diamantate per fare un taglio in opera, a meno che non si voglia mandare il piano in laboratorio, ma è ancora più complesso. E un'altra nota la richiede l'allacciamento di corrente, cioè sul contatore abbiamo detto, però i piani cottura a gas normalmente sono comunque allacciati all'energia elettrica perché hanno il, diciamo, l'accensione piezoelettrica, quindi quel oggettino che fa una scintilla che permette di non avere più l'accendino di fianco al piano cottura per accendere i fuochi a gas. Ecco, quell'attacco ovviamente non consuma niente e potrebbe essere anche stato attaccato con cavi di fortuna in passato da chi ha installato il piano cottura a gas e ha prese a 10 ampere. Ecco, invece il piano cottura a induzione consuma molta energia, bisogna sincerarsi di attaccarlo che sia collegato con cavi idonei e a una presa a 16 ampere, quella a passo largo, tanto per intenderci, non è quella a passo stretto. Questa è una cautela di sicurezza che anche nell'installazione, soprattutto nell'installazione fai da te, perché gli installatori professionali lo sanno bene, bisogna tenere in buon conto. Bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi e per averci fatto questa panoramica in cucina. Rinnoviamo ai nostri ascoltatori l'invito che avevamo fatto appunto alcune settimane fa a suggerire temi, magari prendendo spunto dalla chiacchierata che abbiamo fatto alcune settimane fa. A presto, buon lavoro, ciao. Grazie mille e a presto. E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Questa è la nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Potete contattarmi scrivendo a 2024@radio24.it oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre fateci pubblicità non tanto per gli onori della trasmissione, ma perché pensiamo che i nostri ospiti dicano cose interessanti che quindi meritino di essere divulgate in ottica proprio educativa, no? Amici, parenti, colleghi di lavoro, politici, locali o cose del genere. Ci risentiamo la prossima settimana.